là è claro che quando ho ritirato tutti gli attrezzi, guardo se ci sta quel circuito nell'SBE. Già sono qua comunque. Ehi, fai, già sono qua anche io, non c'è problema. Vediamo se facciamo qui. Casta la propagazione che sta aprendo. Io sento qualcosa sopra anche io, ma non capisco cosa sia. C'è roba lontana, vicino. E ci sono tutti i canali pieni, anche con segnali abbastanza forti. C'è qualcuno qua? Hola. Hola. Ehi, andiamo lì, sono qua, sto facendo una cosa, Mara. A vedere come sto uscendo di radio, perché questo qui aveva i ponticelli e li l'ho tolti. Benissimo, alla grande. Cappa. Può darsi che vada bene anche sull'altro adesso. Boh. Adesso è a 5, là. Va bene, va bene. Amplificata, bella, senza rumore, senza niente. E adesso lo provo sull'altra. Ciao Natalino, buonasera. Anche io ti ascolto abbastanza bene. Oh Claudio, ho aumentato un po' la radio, l'ho portata da era metà corsa al 60 e passa. Si sente o non è cambiato niente? No, già si sente, va bene. Ah, perfetto. Questo è da Palmo, qua metterne uno, si può mettere il microtelefono oppure si può mettere un riduttore. Se lo provo. Gianfranco. Dimmi Natali. Come sta facendo con questa? Io ti sento lo stesso bene, però mi sembra che ci sia una ventola sotto, è possibile. Adesso, guarda, adesso è muta la porta, se la metto muta, va? No, adesso non ho sentito nessun rumore. Perché ventole non ne ho, se non è che sente quella dell'alimentatore. Ma può darsi che fosse anche propagazione, perché ogni tanto arrivano segnali forti, quindi si sta un po' alzando la propagazione. Ma come sta uscendo di radio su questa? Va bene Natali, per me va bene. Guarda se la alzo di più. Guarda, adesso è a manetta, poco fa era a metà. Guarda, aumentano solo i rumori, ma la voce più o meno siamo lì. Non c'è un grande guadagno di voce, c'è un guadagno di rumori di fondo. Quindi va meglio a metà, là? Beh, in pratica sì, perché non ti fa andare oltre, capito? Probabilmente c'ha l'LC molto chiuso. Beh, io non li ho toccati, quindi non so come sia la LC qua e poi, vabbè, comunque è la stessa radio dell'altro, del primo che ho usato, quello col bip. Sì, più o meno mi sembrano quasi uguali, dai, tutte e due chiare comunque, vanno bene. Ok, vabbè, perché mi faceva un rumore di innesco, ma era dovuto perché gli avevano fatto quei ponticelli, un MB più 4 questo. Ah, dalla ZG, quindi ma tutti ne parlano, pare che tutti questi microfoni siano tutti toccati in qualche modo e quindi non danno più di tanto. E evidentemente quello che ce l'aveva prima, siccome me l'ha dato in scatola nuovo, però io ho controllato, c'erano i ponticelli, io ho preso e li ho tolti, non mi interessa quei ponticelli lì, così è normale, capito il microfono? Sì, evidentemente chissà cosa serviva, no? Ci vorrebbe lo schema di quello che hanno fatto. Va bene Natalia, io stavo leggendo un manuale, quindi ripasso alla lettura, perché sennò non ci capisco. Non ci capisco niente di come procedere. Vabbè, ti lascio alla tua lettura. Ti ringrazio per il controllo. Ci sentiamo alle prossime, là. Sto in ascolto. Ok, Natali, ma poi hai risolto con la popolazione degli indigeni, sì. Ti stanno lasciando in pace. Ma siccome ho girato l'antenna, perché ho messo un antenino di quelli per ascoltare col ricevitore che ho, quello piccolino, ed è in basso quello, per metterlo al centro della strada ho girato il tubo dell'antenna e quindi sono girati anche i radiali, però non è venuto nessuno a disturbare qua. Come diceva qualcuno, fosse la volta buona che ti lasciano in pace. E di una voce a Gianfra. Ok, va bene, ci sentiamo dopo eventualmente, Natali. Per adesso buona serata. Altrettanto, buon proseguo, ciao. Va dopo, Natali, io sono qua, dai, sentiamo che anche io sto facendo cose. Prova. Attenzione Claudio, ci sei? Ah. Claudio, mi dici come sto uscendo? Che sto trovando la cosa con la apparecchio. Ma non ho capito niente, c'è un televisore alto, cosa hai detto? Ho detto, se mi dai un controllo di radio e anche di segnale, che sto trovando una cosa con attaccata all'apparecchio. Il segnale 9+20, sto ascoltando con K, se te ne sei accorto. La radio è la tua, o quella di sempre. Sto provando l'attrezzo che ogni tanto metti tu, il 300, al minimo ovviamente. Ah, vabbè, al minimo devi far fare gli scatti. No, non è fare scatti. Credo che non è faccia. L'ho tasto ai minimi termini, con 2 watt. Se non funzionasse, invece funziona abbastanza bene. Però mi sta distruggendo il dettaglio. Sta nascendo un po' stazionare. No, già fra non sta andando bene. C'è un rientro di RF allucinante, ti si sta abbassando la modulazione. Aspetta. Sì, troppo basso di potenza. Ecco, l'ho tolto. Adesso com'è? Tranquillo? Sante 8 arrivi. 4 e... 7-8. Ah sì, perché c'ho il polo però. Allora cazzo, metti l'antenna, rincoglionito. L'antenna c'è, ma è un di polo. Che posso fare? Ci sarà anche bagnato. Sta usando il 300 con di polo, no? Sì. Certo, da 8 a 9:15, minchia. Lo so, questo ero da massimo 5 watt, quindi in AM, quindi è ovvio che vada così. Molto bene. Allora, ti già, che fine hai fatto? Sei sparito. Era al telefono, Claudio, adesso. Mi hanno telefonato, non posso avvisare. No, non avevo immaginato, ma così tanto non pensavo che riuscito all'improvviso a fare qualche commissione urgente. Ho detto, boh, già non ho mancato la luce, ho il telefono, ho riuscito. Però opzione avevi, invece che altro. No, l'intenzione c'era di uscire, perché ho visto una bella giornata e volevo uscire bene in macchina, attaccato la pelle e uscire in macchina. Ma poi ci ho ripensato, non mi riposo un po' perché sono stressato stamattina, sono tutte le grappe, insomma. Lo so, ma non ti faccio niente, poco meglio stava bene, come è andato via il sole, che avevo freddo, pronto Massimiliano, poco fa, per essere la scrivania, minchia, mi stavo cancarando giù. Già va bene, però fra, se sta fuori con le pagate, poi ci sei sempre di scimare. Aspetta, sì. No, stavo provando. Sono con la verticale particolare adesso, messa a terra. Com'è? Sta sempre innescando, tu ci hai innescando? C'ha sempre problemi? Tu dici quasi 9 più 30, la mostra delle varie. Fortissimo come segnale, la radio non mi piace, è cupo. Catteggia? Da me è tutta scarica. Ciao Fra. Ciao Fra, ti ho provato un messaggio, l'hai chiamato Antonio? K, perché non c'aveva il numero, gli ho dato io. E io, K del Roger, portate questo risotto, dai. Sì, già Fra, ho fatto che scendo bene, ma non mi piace. Ma non è la radio nostra. Sì, però ci ha attaccato qualcosa. Continuo a farle, ho abbassato il microfono, forse era troppo alto. Vediamo un po', a diventare di quanto sto andando. Appena 20 ampere. Sai che qua non hai, però la modulazione è cupa, sembra sciatura, buh. Si può regolare anche, c'ha alti e bassi regolabili, però non lo so, vediamo un po', no, aspetta, abbasso un po', ecco, adesso forse me lo satura così. E insomma, al sgoccio vicini, però il segnale è un po' forte. Vediamo un po', abbassato ulteriormente, com'è? L'ingresso devi abbassare, Gianfra, meno ingresso devi dare. Sì, meno ingresso di questo. Adesso ho messo meno ingresso, vedi un po' com'è. È sceso di parecchio. Un'altra cuba, si è sceso leggermente il segnale, ma la radio ha migliorato, Gianni. Anche da me, secondo me la lasciate giù. Prima saturava, addirittura strappava, usciva scarica. Adesso la radio è proprio libera. Ho capito, può darsi che sia sempre lo stesso problema, no? Che c'hanno un po' tutti con l'RM, è un po' giriatello. Comunque, vabbè, allora riprovo a mettere il microfono, vediamo se peggiora, era quasi a zero. Ecco, guarda, lo rimetto come era naturale. Così so se lo devo lasciare così, ecco. Guarda se fa casotto oppure se non cambia niente. No, così è bella la modulazione, 5 perfetto, il segnale è 9,20 abbondante. Così lo devi lasciare già fra, questa è la regolazione. No, tutti, a me non me lo fa, il mio non me lo fa. Quello che c'ho io, invece di abbassarmi la modulazione me la aumenta addirittura, infatti lo abbassare leggermente di un attacco al Mickey Gain quando attacco l'ordinato. Lo uso poco, ma quando lo uso devo abbassare leggermente il Mickey Gain. Non lo so perché fa così qui. Che numero è quello? 300, 12 volt. 12 volt. Adesso sta assorbendo poco, anche abbastanza poco. 18 ampere appena. No, mia 24, non c'è dubbio. Adesso ne facciamo un altro con l'adattatore 24, ho già preso due alimentatori da 30 ampere, ne facciamo un altro da 24, accoppiati, scatolati bene, interruttorino, facciamo una cosa fatta bellina, ne facciamo un altro da 24, no, 12 voci di collinare non si viene a nulla. Avanti già. Cioè attaccavi e non faceva assolutamente niente. che il segnale era, si sollevava, però non faceva niente, capito? Quello va bene in macchina, poi lo vede 50 di valuta in macchina. Quello va bene in macchina. Anche con un tratta grossa, perché vabbè io ci ho dato un po' di meno, però anche con 20 watt di entrata, poppa va fuori, è lo stesso. Me l'ho passato io perché non so quanta, lo so benissimo che da 20. Sì, ma quello va tanto, non ne ha bisogno di segnale, cioè, se non metti il radio, cioè, quando c'è 40-50 watt in macchina, la Puglia, quelli lì là, perciò, io conosco le macchine, ti ascolto benissimo, la grande. Mi sono arrivato a Muros, da via Giovanni Pasqua, mi sono arrivato a Muros, mi sono arrivato a io da lui. Bene, a Babbo Ragione, cosa che luci, Gianfranco? Non l'ho sentito perché sta parlando Gianni. Faccio un passaggio in digitale un attimino, dimmi se il segnale cambia, se non infiamma l'affare sempre. Vediamo se me lo fa, no, non me lo fa in trasmissione, un attimino. Vediamo, faccio, ho messo del pepe, ti ascolto, come qua, anzi forse il video, guarda, vi clamo. Sì, beh, quello là di oggi sono così, c'è una sensibilità allucinante. Aspetta che vedere se c'è il segnale in digitale, prova. Sì, 9.25 segnale, chiaramente non posso dirti cosa hai detto perché se non c'ho la radio, però il segnale 9.25. Quindi funziona. Pensavo non funzionasse, perché di norma i segnali non ci vanno molto d'accordo con la modulazione digitale, anzi, secondo cose li disintegra pure. Ma mi stai dicendo che se riceve lineare, via, se c'è propagazione, deve essere in digitale, io avevo trovato l'olio a 1000. E adesso spento, lo spento perché ho visto che funziona e quindi mi accontento. Bravo, l'hai tutto messo a posto, tutto sintonizzato, codificato, tutto a posto. Sì, come si dice in sostanza, si chiama Marcantone, non c'è neanche una memoria, guarda, sto facendo le prove, l'aggiornamento del software, quindi adesso c'è una versione più recente, sono uscite tante indicazioni di posizionamento, GPS, tipo track, ma non sono biondo. La bicicletta, faccio Ferrari, io ho tocco comunque, almeno deve essere già pronto, devo accendere e devo solo cambiare, normale e digitale, non ci fanno nulla, avrei fatto come diventa a Marco, riprendi già. Ma occhio non toccare il menu, sennò da voi non esci più, Ma infatti gli tocca nulla, i menu, sotto menu, eccetera, eccetera. Guarda, Clari, di cose ce ne sono pochi, ce ne sono appena 5 di fatti. Io altri che conosco perfettamente di sì, ma sono veramente pochi. Però, secondo me, la primi, c'è il menu che ti fa uscire di testa. Sono riuscito comunque a togliere la registrazione, finalmente. Era in automatico che partiva ogni volta che è scattata la data. In compenso non riesco più a trovare il dito dove è finito. Quello già si trova, no, a me basta che sappia cos'è il lock, io una volta sono le 10, bongo il lock, non mi piace più. Ma adesso metto 2-3 minuti giusto per trovare, e vediamo cosa succede. Fai tu, non c'è problema. Califo, tutto a posto, Califo. Califano. Ma quando fai in digitale ti assorda il rumore oppure è tranquillo? Solito il rumore digitale, Gianfranco, devi avere il rumore basso, infatti sarà un rumore un po' particolare, però nulla, non senti niente, senti solo vivi, e boh, tipo una telescrivente. È la stessa cosa che c'è qui su cui, se ti metti a ascoltare il wifi o i telefonini è la stessa cosa. È sempre una posizione di dati, poi la compressione cambia. quell'ore che cambia, però sta sempre lì, sempre vabbè, io vado a cercare se trovo qualcosa da mangiare, al limite mangio una scatoletta di quelli di gatti, come c'è il mondo. Vai, vai, va bene, lasciamo qua, avanti già. Sì, ehi, siamo nei pochissimo punti. Sì, adesso, va pure andare a Marco da mangiare adesso da me. Altre cinturie di compro di seconda passaggi, devi andare verso il 4, vai verso il 4. 4, 4. Oh, 4, il volume del microfono, cazzo, cosa ti dici? Già va bene, prova a 5 per vedere se è troppo forte. Lascialo così, che già va bene, vero? Vedi se farà, deve essere al telefono. Ah. E va bene, gliel'hai messo più potenziato, non sei? E come l'hai fissato? Oh, se non avete chiamato mi sono abbonato il secondo. Sì, io sto scendo, farò la grande. No, fra, sta andando bene, non ti preoccupare. Sta andando benissimo, alla grande. Quello che devi dare a... Dai, sto scherzando, adesso mi sto facendo arrivare la mini turbo, me la dice un nero. C'ha già la base nera e mi faccio vedere anche l'antenna. E beh, certo me lo ricordo, mitica, già, se quando la struzzi carteggiala bene, carteggiala, capito, con la tela grossa, se no ti si sfoglia, e quella lì, capito già, quando la struzzi con la piccola, la mini turbo, carteggiala bene, togli il giolino da sopra, e l'acciaio deve essere, come si dice, ruvido, altrimenti ti si sfoglia. Rasposo. Io, farlo così, capito? Pure è una bella passata, lascio asciugare, bene, e ne è un'altra passata, perché io l'avevo verniciata la mia, quella VU, e ha durato un'intera metà. La prima volta invece me l'ha tutta sfogliata praticamente. Allora l'ho fatta tutta ruvida come ha detto il carrozziere, bella, ruvida, ruvida, l'ho passata due mani, una cannonata. Perché come la pasta, no? Quella che entra il sugo, che la mangi quella succiusa. Allora. Se la sorbe, no? Devi dirmi che se la sorbe. Ah, certo che sì. Se la dovrei ordinare, poi non me la butto, mi ha più nessuno a me. Il telefono io, mi ha preso un po' il telefono e non mi ha più chiamato. Yam, yam. Sì, è questo poi che esce, se la fondo scala, guarda, aspetta. Oh, 9-3. Prova, fra. 9:10 sei qua, però sei più vicino a Gianni. Con cosa la stai provando? Con quello che ti va qui? È strano, perché quello lì era un bel posto come alimentatore. Tutti gli amperi che c'ha ti ridava. Già lo sai, è bisogno di trovo. Ti prende quanto vita di potenza. Prova con l'altro. KK. Prova, fammi guardare. Uguale identico all'altro. Prova, più picchi positivi c'hai qua. Ah vabbè, adesso usci. No, no, non ne hanno, io l'ho ordinato da fuori 50 ampere, il mio era 50 ampere. Ma portata? Non lo so, chi è? Ma portata c'era già. Quando ha parlato coso, Franco, l'ha distorto la voce. Non ho visto il segnale quant'era. Ehi, fatta, siamo 4 watt, siamo di veloci. Ah, ma vieni ancora già, ci manca l'altro, gli altri radio, va, nella L, nell'altro posto che ho messo. No, l'ho aperta adesso, non ci avevo fatto un cazzo. L'ho aperta adesso perché sto guardando e c'era il messaggio. Oh, io, no, andiamo va bene, che bella ordinata, dai. Un gruppo di fila, ragazzi, guardi. Alla fine c'è il caporale. Sono leggibile, ragazzi. E vabbè, ho voluto rimettere questa per avere un po' più di spazio, già è troppo piccolina quella là, dai. Però era bella, l'ho ordinata anche così. Vabbè. È nata così, la lasciamo così, dai. Adesso rimetto l'altra radio, con le altre due che mancano, basta, boh, finito. Ehi, cazzo di lavoro. Non lo sai, chiama, non c'è un problema, fra. Facciamo tutto. Che antenna stai mettendo? Ma è nuova, l'hai comprata, ce l'hai da parte o l'hai fatta nuova? Già va bene, già va bene. Io se la ritrovo me la ripiazzo con l'antenna. E una volta che piatto con l'antenna mi metto anche il cavo grosso, là. Però se quando c'ho questa qua già va bene questo. Non lo so adesso se non voglio... Ho la paura sempre di questo vento che sta facendo forte, adesso ha messo l'antenna pesante. Cosa che paura di avere già? Della Mantova? Ah, ne ha vini. La Mantova, vivo la mora, vivo qua. Ah, guarda, se sta fatta bene, ecco, quindi anche chi è la Mantova. Ecco, ti ha durato una vita, adesso stai temendo. Boh. Piazza, piazza, piazza. Sì, la 798, quella della Sio, ma intanto è uguale alla Mantova 5. Ah, bene, che quello, ma se siano le antenne poi. Devi ancorarle bene, nel suo tempo di merda sta facendo, capito? Quindi devi ancorarle bene, sta a fare bene, qualche tirantino, la registrano. Ehi. Vai a guardare la Blizzard, che quella lì c'ha anche il cerchietto per non buttartene il radiante. Blizzard? Ma è chi la fa, la Ecco, no? No, la Sirio. Blizzard. Ma è simile alla Mantova? Ehi, c'è il radiale più piccoli e c'è il cerchietto per tenere. Ah, ho capito, ho capito. Sì, sì, sì. Allora c'è i gommini una volta che l'avvitti, no? Fanno un po' di pressione. E qua c'è il cerchietto, l'ho visto da qualche parte, non mi ricordo. No, ha un cerchio grande che tiene tutti i radiali. Ah, quello. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ho capito, ho capito come. È un piattello che mantiene a supporto dei radiali. Ehi, mangia io. Va bene così, c'è una nuova, nuova, nuova, revisionata quest'estate, adesso quest'altra estate, vi sono fatto tutto il tempaccio, la abbasso nuovamente, la pulisco, è tutta piena di grasso, ingrassata, tutta, con manutenzione e la ritiro su. E molto probabilmente dove c'erano le direttive lì metto un'altra antenna, sempre 15 ottavi, tipo per la 27. Mandamela, se ce l'hai, così non perdo tempo a cercarla. Il posto già com'è? Come la Mantova o più alto? 138. Sì, più o meno come la Mantova, 130 euro, 140. E così ad 8 meno 10 siamo quasi, minchia. Meno 20. No, sono 8 meno 4. 19,44. E come avevo un freddo avanti. Sono sceso poco fa, è molto Massimiliano. C'era un freddo giù, guarda va, un finosa, anche a me me l'ha fatto una volta, mi faceva saltare salvavita, già lo fa, si fa, già lo fa, no, a me quando accendevo lo scaldabagno mi faceva scattare salvavita, arrasta assorbimento e vado a scaldabagno, invece c'era la resistenza in corto, no, col carbone avevo preso la resistenza, cambiata, e non l'ho fatto più, e lui ancora uscì, a me c'era la carbone, quello di Via Napoli, si è chiuso, non c'è più. Carbone di Napoli ce l'aveva, si è chiuso e non c'è più. Mi pare 25 euro me l'aveva fatta pagare. Con le guarnizioni, tutta completa. Compra, con che stai uscendo? Gianni, ti sei tutto esatto? No, ma Gianni, che saturo. Una tarda in memoria. Ma con che apparato stai uscendo, Fra? Ma stai usando, c'è. Il cagito 68, il 80, già lo conosco, sì, taglio a Dio. Cioè, ma quando è che si è agganciato che non capisco niente? Aspetta, guarda il segnale, fratto, che ci sta arrivando. 9.30. Ci arrivo 9.60 a Lucca. Ah, è tutto un acqua, è fissato una battenza. Devo trovare la soluzione, lo sai perché io metto su... stavo leggendo qua di questo qua che aveva il baracchino in macchina, l'ha fermato la finanza e gli hanno detto che non poteva installare il baracchino in macchina, che i baracchini potevano installare, le radio le potevano installare solo tutte le luci, e ti fai dire di sbaglio. Ah, io c'è che finanziere, con il finanziere è uscito dalla funzione del Daci, chi è che vuole entrare? Sentito uno sopra di te già, ti ho detto qualcosa ma non ho capito. Ma non ho capito perché si è accavallato con Gianni, più o meno hanno lo stesso segnale, vabbè. Se vuoi entrare siamo qua, non c'è problema. Vabbè, ma ho già, 960 a Luca, siete attaccati, già rubrio. Poi quando attacchi fai da 9.15, quasi 9.20 a 9.30 abbondante, quasi 35. Io sto dicendo Luca Fitta, non Luca Valicuta. E appunto siete attaccati, voi già, che sei lontano di Luca Fitta. Chi non è attaccato, cazzo. E alla Tenoci, c'è un caro monte, da una ragione. Ah, io già, è fine, raga. Dai. Cos'è? E spostavo 40 canali quando ero in via Pasqua, lui eppure non era attaccato, no? Sì, magari appena si vede. Sentito a Giuseppe tornato, chissà che fine ha fatto, non dovevo aspettare l'antenna pure, non si può così, né a lui né a Antonio Riserva. No, l'antenna c'era l'altro giorno, stava parlando come un bulino, già c'è, che incasinato, sempre fuori. perduto, boh, ho fatto di nulla. Ci avrò ripensato. E adesso si dovrà crescere il culo, se ce la fa piazzare. È passato, non c'è il rotore di scatole così come lui, è passare il cavo dentro il pluviale, deve mettere, ci vuole una scala aerea, te ne passano macchini, capito? Se avesse fatto come, per dire, come sono io, anche come sei tu, no? Prendi la chiave, apri la porta, ti piace l'antenna, è diverso, ma quando devi fare tutti gli imbrogli, gli gasini, te ne passa la gana, piazza l'antenna, ui. Basta mettere dietro il pluviale, intanto c'è bisogno di metterlo all'interno. Dopo a chiapparlo ci vuole Gesù Cristo a trovare il capo che scende, oi oi, è un casino, devo bucare, bucare il pluviale, non è che siamo d'accordo. Papà passa da dietro e mette le fascette come lo faccio io. Non tutti sono d'accordo, io ho giubucato i cavi entrano nella mia finestra, io ho fatto una finestrella nel tubo del pluviale, i cavi sono dentro lì, dentro un corrugato grosso, tutti assieme, tutti fascettati, capito? E ho bucato, ho fatto una finestrella, messo il corrugato grosso e ho portato i cavi alla mia finestra, non capito? Tutti i padroni, cosa, chi se lo ha preso il padrone. La porta alla finestra è mia e quindi faccio quello che mi pare piace. Ma è pluviale, è condominiale, fa scendere l'acqua dall'altezza, è una cosa condominiale, se si mettono, come se lo fanno mettere? Comunque si può mettere dietro, come ho fatto io, lo nasco su dietro il pluviale, ho fascettato, si trova un po' tutto, qualcuno non mi ha fatto entrare in casa per fascettarlo, e non me l'ha punta, vuol dire che a lui mi ballerà, quando c'è il vento, si trova un po' una Beh, io ho forato perché mi ha dato l'autorizzazione, il mio, la mia palazzina, non tutto il condominio, ogni palazzina qua è per i fatti suoi, non è il complesso, è tutto condominiale, ma ogni palazzina è indipendente, quindi comunque se la metto a torto, lo bucare, la testa la mia finestra, fare tre quei cavi, non me frega a me, alla uscire, ciao, bucato, capito, preso la tua scala, fatto il foro rotondo, fatto uscire i cavi, però i cavi non sono pinduroni, c'è un corrugato agganciato al muro, no? con la gaffa, e i cavi entrano lì dentro, quindi tu non vedi niente, vedi questo corrugato che dal pluviale, dal foro, entra nella mia finestra. Ah, io invece l'ho fatto passare dalla porta a finestra, già lo sai come ho fatto il buco nel legno della porta a finestra e l'ho fatto passare da lì. Devo mettere l'altro capo, devo allargare il buco, eccetera, eccetera. Ma adesso faccio tutto un brivido perché sono solo e faccio ciò che mi piace. Bravo, bravo. Hai visto? Io non sono solo, ma faccio lo stesso quello che mi piace. Se ti dico io ho forato l'alluminio, io devo far entrare i cavi, perché il corrugato arriva sino a dove c'è il marmo all'interno. E poi i cavi entrano da soli, quindi ho fatto il foro dell'alluminio della battuta della finestra e li ho fatto entrare dentro. Ma la cina frutti, ma non mi va di nulla. Cazzo già, l'8 meno 5 sono, minchia. Sì, vediamo un altro po' che ci andiamo, l'ho portato anche dopo un pranzo, mi si è messo a lamentarsi, come facendo lì, ho fatto una cagatina di capo e dopo era tutto contento. Mi si aveva mal di pancia, non lo so, ma non lo fa mai, mi stava venendo, andavo verso la porta e ci lamentava, allora ho preso, l'ho messo in Italia, l'ho portato lì, ha fatto i suoi bisogni e prima me l'ho portato anche verso il mio era in giro stamattina con quel caldo, era arrivato a casa e allora di punta era morto, si è attaccato la ciotola all'acqua, si è bevuta tutta, poi era fuori, ma sai come le colava la baba? Eh? Allucinante, subito ho fatto sdraiare al fresco, gli ho messo un panno umido in testa e gli è passato, ha preso qualche colpo di calore, capito? Bulldog inglese, mamma mia, niente di Riccardo che fateva viare cinghiali, la testa bollente, gli ho messo subito un panno freddo in testa, si è sdraiato al fresco, non ha sbavato più, sembrava un rubinetto dalla bocca già, infatti era nel poggiolo, non l'ho fatto entrare, poi abbiamo lavato tutto, disinfettato tutto, e è passato. E io oggi ho sbagliato a non uscire stamattina, sarebbe dovuto organizzare diversamente, magari farle di sera, le gabbie e uscirmene con lui a fare un giro. Però magari mi sei attaccato anche l'antenna. Lui è uscito stamattina con la figlia, infatti dove c'erano, quando è tornato era qui, è ancora dormito, mi sto guardando qua, infatti per quello mi sto trattenendo, perché di solito lui alle 7:30 già in piedi, qua rompo le scatole, invece sto aspettando, e dopo lo porto, capito, perché è uscito stamattina con me due volte, poi è uscito con mia figlia, è rientrato ed era Muccio. KK avanti Califà. Invece Teso si sta lamentando, ora vuole scendere. Dai, ci sentiamo qua. Oramai è venuta l'ora, mi stava guardando e invece penso E io, d'accordo, dai, allora mi organizzo anche io, ci sentiamo dopo, se coincide. Ciao fra. Allora, fuga dal cimitero, il primo portone mettono quelli morti normalmente, chi di infarto, chi di vecchiaia e chi, insomma. Però l'altro portone più avanti, lì c'è morte di Covid, infatti a me lì non mi hanno fatto entrare, non si poteva entrare. E ci sono delle bare che dovevano cremare, capito? Sicuro in terra? Ma c'è un armadio proprio, eh? ogni spinta che c'ha, diciamo l'elevazione, è il posto, un po' centro avanti Lukaku, Magna Lukaku di Magna. Cacca forte quello. Secondo me cos'è questa partita? Coppa Campione. Coppa Italia. La Supercoppa l'ha già vinta la Juve, ha battuto il Napoli. Quella l'ha vinta la Juve la settimana scorsa. Adesso c'è la Coppa Italia e ci sono tutte, c'è anche la Juve. Eliminazione diretta, non è che devi fare anche chi tira a mano, guarda il ritorno. Una di queste deve vincere, amico. Non è che vanno anche ai rigori, deve vincere. Questa che basta un gol, vero? Sì. La Juve ha battuto una col 2-0, ha vinto la Supercoppa. Adesso è anche in Coppa Italia. Capito? Questo è Milan e Inter, poi c'è Juventus e Spal. Adesso vediamo, non lo so. Comunque, già sta Udine, il Milan di nuovo perso, la Juve c'è quarta, c'è una partita da recuperare con Napoli, quindi il campionato aperto, si deve giocare, giocato la mazza all'invaria. Se pare già fare dei voti? Sì, sì, deve vincere, ma deve vincere. Poi io ho capito che non ha, se basta con gol. Una deve vincere lui, se vince il Milan 1-0, può vincere il 2-0, 2-1, una è partita secca, capito? Sul 2-0, sul 1-1, sul 2-2, sul 3-3 ci vai ai tempi supplementari, se non passi ai tempi supplementari vai ai rigori. Cazzo, mi spintone che ti ha dato, sei in merda. Negretto, vabbè, un altro bolso, mi ha più lì. Grande allenatore più lì. E tutte, anche in Supercoppa, gli altri in Coppa Italia, l'Inter lo stesso, hanno tutti i supplementari sono andati, tutti i supplementari, hanno io guardo 110 minuti, 115 minuti. Cazzo, quasi 2 ore. Allora, oh yeah, babba via, dove sto? Sono andato a sistemare il cane. Ah, ma è detto qualcosa? Amico, come mi sto adesso? Lascia vedere. Il pomeriggio dice, ma poca però. Vabbè, poca non poca, tu sei andato qua in ballo, io e papà, basta, siamo stufi. Dice così, dice. Tanto che il pollo, basta la piratta, ci. Ma dov'è non lo riesci a farla, hai fatto palla oggi? L'aria, fuori 20 metri dall'aria, che sono la sollevi a campanile appena appena a far entrare qualcuno di testa. Ma un po' ti sei troncato. Quanti chiama? Prova, tu vai, fuori, per un affinamento. Una rete squalificato in campionato lui, a Ujaji. Hanno squalificato. A chi? A Tombe, squalificato. In Serie A è squalificato, in campionato è squalificato. C'è il secondo, allora poi c'è Tomba. Audi, la partita Udinese Inter l'hanno squalificato. Ha parlato male all'arbitro, riesce di volare in guardo proprio. Ecco, non mi davano la squadra di extracomunitari. Dai, dai. Tanto ma sei attaccato. Ma cosa? Ma che sei saturo? No, non sono saturo. Da Messi? Saturo sono qua. È compressa la radio, molto compressa. Da lui c'è più vicino, è chiaro che gli arrivi saturo. Qua sei al limite. Aspetta. Per dimostrarti che sei più vicino a lui, vedi? Ora, ora. Una giocopesa che attacchi, ti scuola vedendo i tre che ha detto con la pecca veniale. Minchia. Lo stavo provando quello là. Non funziona, caccaro. Adesso sta attaccato. Capito? Lascia stare attaccato. Che non c'è nessun bisogno. Allora così va bene. Alla grande, io sto andando con 10 watt modulati, gioco a 5 watt importante. Ah, voglio, a me pure io più o meno. Su per giù è così. Questa radio non c'è bisogno, tanto c'è il picchio di modulazione. 5 watt importante, 10, 15 modulati, quasi 20, va benissimo, cosa vuoi di più? Ma io ho 10 watt e basta, dovrebbe essere così all'incirca. Va bene, se ne vuoi 20, cosa la tena tutto. Soltanto 2 minuti vado a prendermi una bustina per la schiena, se no domani c'è il battito. Ok. Vedi un culo, ma? Oi, oi, oi. Certo, lui cosa ne l'ha bugato, mi fa? Luca, come? Lo rimuovo in aria. Domani. E chi è Luca la foto? Nevica Sassari. E quando? 6 giorni fa. Ah, sì. Era nulla io quando nevicato. Ho dormito a nulla, mi ho fatto un gol. Non sono riuscito a rientrare, la neve che c'era. Ma quella pedici ci metto.